che lo vede, il sangue ti sale alla testa. A volte si corre veloce per trovare pace. Mi cerchi, ti siedi vicino a me. Lo so che stai pensando a qualcosa. E se ti parlo mi senti appena, mi sfuggi via leggera, leggera. Se tutto sembra poco, pensa a una foresta, a una luce accesa, un volto tra la ressa. Prendimi le mani, riempiti i polmoni, che c'è aria di festa. Adesso non importa, adesso ci risiamo. E mi brucia il petto, mi sento uno scemo. Se non usciamo fuori a prenderci la vita, a non mollare la presa. E il tempo è il mittente che manda, chiusi in una busta tutti i suoi consigli. Ne prendi alcuni ed altri li lasci ancora un po' lì appesi. Vero che è bello quando la paura resta indietro, piccola come un puntino. Stai meglio e ti sembra strano essere già lontano, così lontano. Se tutto sembra poco, pensa a una foresta, a una luce accesa, un volto tra la ressa. Prendimi le mani, riempiti i polmoni, che c'è aria di festa. Adesso non importa, adesso ci risiamo. E mi brucia il petto, mi sento uno scemo. Se non usciamo fuori a prenderci la vita, a non mollare la presa. Rimani qui, ferma, dove eri prima. Come il pane buona, io ti darei la luna. E se ti sembra poco, pensa a una foresta, a una luce accesa, un volto tra la ressa. Prendimi le mani, riempiti i polmoni, che c'è aria di festa. E il resto non importa, perché io ti amo. E mi scoppia il petto, sarei uno scemo a non portarti fuori, a prenderci la vita, a volere la luna. Voglio che quella luce che abbiamo in fondo agli occhi resti sempre accesa. Voglio che quella luce che abbiamo negli occhi resti sempre accesa. Voglio che quella luce, quella che hai negli occhi,